Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Eravamo ragazzi e ci dicevano: studiate, se no non sarete nessuno nella vita. Studiamo. Dopo aver studiato ci dissero: ma non lo sapete che la laurea non serve a niente? Così emigrammo. Andammo altrove. Andammo alla ricerca di un angolo sicuro nel mondo. Lo trovammo. Ci sentimmo finalmente bene. Ci sentimmo finalmente a casa. Ma un giorno quando meno ce lo aspettavamo, il sistema Italia fallì. E allora ci dissero: ma perché la vostra generazione non ha fatto nulla per impedirlo? Perché? Beh, a quel punto non potemmo che rispondere dal profondo del cuore: mandatevene a fanculo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Amaro, davvero amaro, questo monologo, breve storia di una generazione, interpretato dall'attore Giampaolo Morelli Catalano e tratto dal libro omonimo. Monologo, trasmesso in versione ridotta, che rappresenta una sferzante denuncia generazionale contro un sistema paese che ha escluso ed emarginato le generazioni più giovani e gli outsider migliori. Perché lo ha fatto? La risposta a breve nel notiziario e subito nelle parole del ministro dello sviluppo Corrado Passera, sua la frase della settimana. In Italia ci sono ancora troppe carriere basate solo sull'anzianità, ancora troppi meccanismi che non collocano nelle posizioni rilevanti persone scelte solo ed esclusivamente sulla base delle capacità. Per Passera la fuga dei cervelli all'estero non potrebbe esistere se non ci fossero cervelli validi. Detto questo, dobbiamo, dice, fare in modo che l'Italia sia sempre più attraente per i cervelli di tutto il mondo. Al momento lo è, ci permettiamo di dubitare. Fondamentalmente all'estero ci si basa su un sistema meritocratico, quindi di continue challenge. Vengono fissati degli obiettivi due volte all'anno, però se non si raggiungono questi obiettivi è anche molto più facile rimanere a casa. Lara Zanella, 28 anni, è marketing manager per un'importante società di selezione del personale a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. La classe dirigente italiana non si rinnova e dà vita a una vera e propria gerontocrazia nella quale gli anziani monopolizzano il potere. 4 potenti su 5 hanno oltre 50 anni, gli under 35 rappresentano solo il 3% dell'intera classe dirigente. La fotografia allarmante arriva dal rapporto classe dirigente, il profilo del potere in Italia di Eurispes. Il potere si concentra soprattutto nelle mani di chi ha un'età compresa tra i 51 e i 65 anni e tra gli over 65. Oltre il 90% della classe dirigente italiana risiede nel paese, segnale del fatto che la penisola non riesce a trattenere i propri talenti. La buona notizia è che rispetto a 20 anni fa il livello di istruzione della nostra classe dirigente si è alzato, i laureati sono passati all'83%. Studenti e laureati in fuga dal sud, a rilevarlo l'ufficio studi dell'Istituto per le ricerche e attività educative sui flussi migratori degli studenti universitari. Uno studente su 5 scappa dal mezzogiorno, in media 24.000 giovani ogni anno, si tratta del 20% della popolazione universitaria potenziale. I giovani italiani non sono troppo schizzinosi o choosy quando si parla di lavoro, spesso si adattano a un'occupazione diversa da quella per la quale hanno studiato. Il 25% dei laureati dell'ultimo triennio, secondo Banca Italia, ha un'occupazione con bassa o nessuna qualifica, mentre il 32,3% svolge mansioni diverse dall'ambito di laurea. Nel triennio considerato, il tasso di occupazione under 35 con laurea era pari al 75%, il tasso di over education, preparazione superiore rispetto al lavoro che si svolge, era più alto al centro e al nord-est. Paradossi generazionali: si allunga l'età media di permanenza al lavoro mentre i giovani restano a casa. L'ultima rilevazione Istat evidenzia come in Italia l'occupazione sia in aumento tra gli anziani e in netto calo tra i giovani. Se nel 2004 erano al lavoro 2 milioni di 55-64 anni, la stessa fascia è cresciuta in 7 anni di 700.000 unità. Drammatico invece il calo degli occupati under 34, dai 7 milioni del 2004 ai 6 milioni del 2011. La precarizzazione del lavoro rischia di provocare nei prossimi anni una serie di conflitti generazionali. Questa è l'analisi dell'indagine Generazioni Giovani e Anziani nel 2020 realizzata dalla Federazione Pensionati CISL. E le crescenti forme di precarietà del mercato del lavoro nei posti e nelle retribuzioni che incidono sui futuri trattamenti pensionistici, soprattutto per le fasce più deboli, giovani e donne, avranno riflessi su adeguatezza delle prestazioni e sostenibilità sociale del sistema, lo denuncia la Corte dei Conti. I giovani italiani non sono tutti bamboccioni, uno su tre si sente pronto da subito a fare impresa, emerge da un'indagine SVG. Sempre per i giovani l'occupazione resta la priorità della vita, più della famiglia, lo affermano il 91% degli under 35 intervistati per il rapporto Il futuro delle nuove generazioni promosso dallo IAL nazionale. Oltre il 60% del campione ritiene che chi oggi studia occuperà una posizione sociale meno privilegiata rispetto alle generazioni precedenti. Se il 71% è disponibile a fare qualsiasi lavoro, inquietano le convinzioni su come trovare impiego. Per il 78% serve conoscere persone che contano. Un anno dopo l'Idoli dalle Big Italians, i giovani imprenditori del centro lanciano venerdì prossimo a Pesaro il convegno Primavera Italia, che vedrà la partecipazione di numerosi giovani espatriati, pronti a fornire il proprio contributo di idee. Francesco Mascarucci, presidente dei giovani imprenditori delle Marche. Lo scorso anno abbiamo analizzato i fattori che rendevano poco attrattive le nostre aziende, per cui ci siamo un po' puntati il dito contro. Quest'anno invece vogliamo raccogliere ed ascoltare le azioni che i giovani espatriati e non possono attuare per il rinnovamento radicale del nostro paese, e questo proprio per creare l'humus necessario per la rinascita italiana, Primavera Italia. Lo faremo utilizzando un format innovativo, anche il pubblico oltre i relatori avrà la possibilità di contribuire tramite uno speech di 120 secondi. E a Primavera Italia Giovani Talenti dedicherà una puntata speciale sabato 1 dicembre. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Parigi, capitale protagonista di una delle nostre puntate speciali lo scorso giugno. Sulle rive della Senna vi raccontiamo un'altra storia di emigrazione di successo. Nome: Lara. Cognome: Zanella. Età: 28 anni. Città di origine: Monza. Studi: laurea specialistica in marketing management. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2009. Per andare dove? Parigi. Perché? Perché ho trovato un'opportunità interessante. Quale lavoro svolge attualmente? Sono marketing manager. Dove? In un'azienda americana che si occupa di recruitment. Tornerai? Sicuramente non nel breve periodo, nel futuro non lo escludo. E come sempre Redan 60 milioni d'amici introduce in Francia e in particolare nella storia di Lara Zanella. Penso di tornare in Italia, per il momento sono focalizzato sulla mia carriera. All'estero ho avuto opportunità di crescita sicuramente più interessanti di quelle offerte nella penisola, scrivi Lara, giovanitalenti@radio24.it. Considerazioni ai noi già sentite troppe volte in questi primi 3 anni di trasmissione. In cosa si traducono, Lara, esattamente queste opportunità e perché a tuo parere il sistema Italia non vuole o non riesce a cogliere l'appello che voi lanciate dall'estero a rendere questo un paese per giovani? Dunque, le opportunità per me si traducono nel fatto che all'estero c'è più possibilità di assumere i collaboratori a tempo indeterminato per motivi che sono legati sia alla legislazione francese, che è più liberale e basata su un sistema meritocratico. Lara, con te oggi saldiamo un debito e ci riconnettiamo idealmente a una puntata di giugno di Giovani Talenti che volò in trasferta all'ambasciata di Parigi per testimoniare il primo incontro tra giovani imprenditori e voi, giovani professionisti all'estero. Per un piccolo disguido, all'epoca tu non partecipasti a quella puntata, ma oggi ovviamente rimediamo. Perché quell'incontro di giugno, parole tue, ti diede speranza? Sicuramente vedere che Confindustria si stia muovendo e che organizza un incontro in ambasciata con noi è un segno positivo e un segno che ci sia consapevolezza della fuga dei giovani e della mancanza di opportunità di carriera in Italia. Sicuramente le manovre già introdotte, come la detrazione fiscale per coloro che decidono di rientrare in Italia, non sono sufficienti se non vengono anche accompagnate da un cambiamento nel sistema retributivo e per esempio anche nel sistema di incentivazione delle start-up o delle iniziative dei giovani talenti. Partiamo dai tuoi studi. All'università scegli una laurea in marketing management, Università Bocconi. Perché questo percorso? Io ho due passioni, le lingue e la matematica. Ho studiato al liceo lingue e quindi all'università ho scelto economia con l'intenzione poi di partire in seguito in Erasmus per perfezionare la lingua ed avere così una duplice competenza. Già nel corso dei tuoi studi fai una prima importante esperienza all'estero, 6 mesi di scambio all'Università Canadese di Montreal. Quanto questo periodo ti è servito per allargare gli orizzonti e fare un salto di qualità in proiezione futura? Sicuramente per me, che sono figlia unica, l'esperienza in Canada è servita per imparare ad essere più indipendente e ad entrare anche in contatto con diverse culture. Inoltre il sistema universitario canadese è diverso da quello italiano, addirittura ci si può presentare agli esami con i libri di testo, a testimonianza del fatto che i professori non chiedono uno studio puramente mnemonico, ma più concettuale. Nel 2008 ti laurei. Se dovessi fornire un giudizio al sistema universitario italiano, quale voto daresti? Darei una sufficienza licenza proprio per il fatto che lo studio in Italia è molto teorico, anche se durante la specialistica si ha la possibilità di seguire comunque dei lavori di gruppo e si ha comunque anche la possibilità di effettuare scambi con l'estero, soprattutto con la nostra università. Lara, la tua storia è davvero paradigmatica del percorso a ostacoli che si trova a affrontare un neolaureato in Italia, anche quando proviene da un ateneo prestigioso. 40 colloqui per uno stage, attenzione, e quante risposte hai ottenuto, ma soprattutto di che tipo in termini retributivi? Ho ricevuto 3 risposte positive, di cui 2 risposte per stage non retribuiti. E quello retribuito a quanto ammontava? 500 euro. Facciamo un rapido salto in avanti, Lara. È ipotizzabile un simile sfruttamento degli stagisti in Francia? Come funziona oltre Alpe? Diciamo che il sistema stage qui in Francia è diverso, sia per motivi culturali, sia perché lo stage è considerato proprio come un vero e proprio progetto che viene svolto da Z. Io comunque ho avuto un'esperienza molto positiva qui in Francia, ma ci sono anche delle differenze culturali, delle differenze a livello legislativo. La legge fissa la retribuzione minima per lo stage, 450 euro più o meno, ma è anche legato al fatto che la vita qui a Parigi è più cara. Torniamo a te, Lara. Accetti una delle uniche 3 proposte di stage, assistente marketing a Milano, 6 mesi, colleghi fantastici, progetto molto interessante, ci scrivi. Ma quale fu il piccolo e determinante problema a livello di prospettive future? Le risorse umane erano state molto chiare fin dall'inizio del mio stage, perché per dei motivi di budget non era possibile l'assunzione. Lara, all'estero però, se notano un talento, se hanno qualcuno anche in periodo di prova che funziona, se lo lasciano scappare? Generalmente no, perché fondamentalmente all'estero ci si basa su un sistema meritocratico, quindi di continue challenge. Vengono fissati degli obiettivi 2 volte all'anno, però se non si raggiungono questi obiettivi è anche molto più facile rimanere a casa. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Nel 2008 la svolta, contro ogni tua previsione iniziale ti metti in gioco sul mercato estero, invii un curriculum a Parigi e vogliamo dire quanti minuti sono passati prima che tu ricevessi la risposta con annesso invito a un colloquio in Francia e per quale posizione? 5 minuti. 5 per minuti. Una posizione di business development sul mercato italiano per un'azienda francese che voleva appunto entrare in Italia. È impressionante la descrizione che fai del tuo primo lavoro oltre Alpe. A soli 25 anni responsabilità triplicate, come pure lo stipendio e le ore di lavoro ovviamente. Ma non solo, totale fiducia e autonomia. Ci fai qualche esempio concreto? Le responsabilità erano triplicate, in globale mi occupavo di consulenza, della parte commerciale, del recruitment, della formazione, dei controlli qualità e della gestione marketing. Spaventa in un certo senso quando racconti le storie dei tuoi ex colleghi di studio osservare lo spreco di talenti che fa il nostro paese. Partiamo dalla percentuale di ex compagni di corso ora all'estero. Quanti sono, ma soprattutto dove e in quali posizioni? Tra tutti i miei compagni del corso triennale e della specialistica in Bocconi, più o meno il 50% sono all'estero, divisi tra Londra, Parigi, Lisbona, Ginevra, Lussemburgo, Bruxelles. Poi ne abbiamo qualcuno in minore percentuale in Australia, in America e in Canada. Le posizioni sono più o meno di tipo manageriale. E la cosa realmente scandalosa, Lara, a mio avviso, riguarda la carriera di chi è rimasto in Italia o a Milano. Con quali contratti, quali responsabilità e quali stipendi, se paragonati alle vostre condizioni? Gli stipendi sicuramente sono inferiori in Italia rispetto a quelli proposti in Francia, ma è anche legato al fatto del costo della vita, mentre i contratti sono spesso a progetto. Pochi si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato. E questo la dice lunga. A febbraio di quest'anno hai cambiato lavoro, come hai trovato il nuovo impiego e quale posizione ricopri esattamente? Mi occupo nello specifico in questo momento del marketing digitale e sono marketing manager per un'azienda americana che è specializzata nel recruitment. Ho trovato questo lavoro semplicemente facendo application per un'altra posizione nel marketing per un cliente di questa azienda, invece poi sono stata chiamata per una posizione che si è aperta in interno. Sei contenta? Sì, sì. Una cosa, Lara, ci spieghi come funziona la meritocrazia in Francia? C'è un monitoraggio sistematico di tutti i dipendenti e non viene dato niente per scontato, anche se si viene assunti a tempo indeterminato, mentre in Italia secondo me ci sono meno challenge, anche perché il lavoro è considerato più come un diritto acquisito forse. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? L'immagine dell'Italia vista dalla Francia non è delle migliori. secondo me sarebbero necessarie delle riforme concrete da parte del governo a livello del sistema universitario, che dovrebbe forse essere più vicino alla realtà lavorativa, inserire i giovani già dall'inizio nella realtà lavorativa. E poi vorrei citare un esempio del sistema francese e dell'autoimprenditorialità, dove esiste la possibilità per i giovani che creano nuove aziende di avere accesso per esempio ai sussidi di disoccupazione per un anno e mezzo a partire dalla data di creazione dell'azienda. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Lara Zanella, 28enne marketing manager presso la società di selezione Robert Half. Lara vi arriva dopo una laurea all'Università Bocconi, accompagnata da un programma di scambio all'Università di Montreal. Conclusi gli studi, sostiene 40 colloqui per un semplice stage, ricevendo 3 proposte, di cui solo una retribuita. Inizia quindi l'internship a Milano, ma nonostante l'esperienza sia positiva, le viene subito chiarito che le opportunità di assunzione sarebbero state 0. Così cerca lavoro all'estero, ottenendo un contratto come Business Development Manager a Parigi. Subito ottiene autonomia e responsabilità. Nel febbraio di quest'anno il secondo incarico, che le triplica stipendio e responsabilità. Da Parigi Lara fa qualche calcolo sul destino dei suoi compagni di studio. Oltre la metà sono espatriati, chi è rimasto in Italia guadagna la metà di lei con contratti a progetto e posizioni sotto inquadrate. Ci raggiunge ora in linea Rosa Rossignolo, esperta di risorse umane e presidente della sezione di Parigi della Bocconi Alumni Association. Buon pomeriggio. Buongiorno. Rosa, tra poco arriveremo agli alumni Bocconi a Parigi. Prima però un commento sulla storia di Lara. Prendo spunto da una recente notizia dell'agenzia ANSA. La prossima sfida dell'Università Bocconi è quella di aprire opportunità di lavoro per i suoi laureati anche all'estero. Con la crisi attuale è difficile che l'Italia possa assorbire tutti i laureati Bocconi, ha ammesso il neorettore Sironi. Va bene che parliamo, Rosa, di uno degli atenei più internazionali che abbiamo, ma non siamo di fronte a un enorme spreco di capitale umano che il sistema Italia non è più in grado di sfruttare al meglio. Ci siamo già arresi, insomma, nella competizione globale per i talenti. Per me l'internazionalità è ormai un dato di fatto e mi piace pensare ai commenti del nuovo lettore come qualcosa di temporaneo. In linea generale la Bocconi ha una chiara vocazione internazionale, quindi le sue parole non fanno altro che contestualizzare il posizionamento storico della nostra università. E poi, se mi consenti, non parlerei di spreco, ma forse del contrario. Quando i nostri colleghi rientreranno in Italia, saranno più forti. Se rientreranno, questo è il problema al momento, no Rosa? Sì, ma io ne conosco tanti che vengono, si arricchiscono e poi sono di nuovo in un'ottica di movimento internazionale. Questo trend del working abroad è comune a tutti i paesi dell'Europa del Sud. Il mito del Nord esiste ed è una cosa di cui prendiamo tutti. Questo è importante, ma sono comunque, è capitale umano che serve in questa, dicevamo, competizione globale ormai, che si basa proprio sul talento e che l'Italia, insomma, sembra un po' al momento perdere. Importante lanciare anche un messaggio, secondo me, di valorizzare questo capitale umano, no? Assolutamente. Io direi che la crisi è passeggera e che in un tempo non lontano il nostro paese sarà in grado di riaccogliere i bocconiani che sono dovuti andare all'estero. Quando parliamo di associazione Alumni Bocconi, a cosa ci riferiamo e quali sono in particolare le vostre attività a Parigi? Alumni Bocconi a Parigi ha una serie di attività a 360 gradi che coinvolgono gli alunni, le istituzioni, le aziende, la business community. Te ne cito 3. Le eccellenze italiane, i caffè economici e la cena di Natale. Diamo un volto il più possibile concreto a questa comunità di giovani laureati a Parigi. Quanti sono, età media, di cosa si occupano, ma soprattutto perché hanno scelto la Francia? Direi che la metà l'ha scelta grazie al programma di scambi Erasmus, che è stato un acceleratore della nostra presenza qui in Francia. Ci sono anche a volte ragioni personali di incontro di una persona con la quale poi si crea la propria vita di famiglia. Noi comunque a Parigi siamo uno dei chapter storici, esistiamo da 20 anni, siamo tra i primi a essere stati creati, oggi nel mondo ce ne sono 73, siamo circa 150 colleghi iscritti, ma con un potenziale di più del triplo, e l'età media è attorno ai 35 anni e c'è una perfetta giovani. Parità uomo-donna. Sono giovani e, Rosa, è un fenomeno che vedi in crescita, quello dei giovani neolaureati o comunque laureati da poco che scelgono la Francia o l'estero? Sì, decisamente. Crescita recente o è già alcuni anni che prosegue? Crescita stata regolare, costante e forse appunto vista la crisi con una punta più importante in questi ultimi anni. Tu pensi che una riconnessione sia possibile tra il sistema Italia e i suoi migliori talenti, che possa fare ritorno a casa un po' di capitale umano qualificato per imprimere anche rinnovamento e slancio al nostro paese? Io ne sono convinta e penso che la tua trasmissione contribuisca largamente a creare presupposti. Grazie a Rosa Rossignol, presidente dell'Alumni Bocconi a Parigi. E domanda diritto invece per Lara Zanella: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Sicuramente darei il consiglio di buttarsi senza avere paura, anche se all'inizio potrebbe sembrare o forse veramente difficile, a partire per esempio in Francia dalla ricerca della casa o dal crearsi un proprio network di amici all'estero, ma soprattutto se siete giovani partite, perché appunto è questo il momento di farlo. E volevo concludere col motto della Bocconi, degli Alunni Bocconi: talents e value in motion. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un funzionario per le risorse umane all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche a Helsinki, scadenza per i CV 22 novembre, info su eca.europa.eu. Una giornalista coordinatore di sezione per il portale Euractiv a Bruxelles, scadenza per i CV 23 novembre, curricula selection@euractiv.com. E infine un chimico nutrizionista per BioAtlantis a Kerry, in Irlanda, scadenza per i CV 12 dicembre, info a bioatlantis.com. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi ci trasferiamo in Irlanda, paese che tra gli anni 90 e la prima decade dei 2000 ha accolto decine di migliaia di giovani professionisti. Poi è arrivata la crisi, che però non ha fatto desistere del tutto i nostri giovani talenti dallo sbarcare nell'isola di Smeraldo. Enrico Zoppi, cofondatore di Irlanda Italiana, ci spiega quando nasce l'associazione e ci racconta la nuova emigrazione professionale verso Dublino e dintorni. Nasce ad ottobre dell'anno scorso, 2001. Perché? Per dare una voce alla nostra comunità, fondamentalmente. Tu sei giovane, qual è la tipologia dei giovani emigranti italiani in Irlanda? Sono ragazzi laureati, ragazzi diplomati che vengono fondamentalmente per lavorare in Irlanda presso le multinazionali, quindi call center oppure nel settore ristorativo. E questa emigrazione ha risentito della crisi in Irlanda? Insomma, prima era una meta molto ricercata, poi è arrivata la crisi. In realtà le multinazionali continuano a reclutare, forse sono più selettivi rispetto a una volta, però non direi che la crisi ha toccato molto queste multinazionali. E quali profili cercano? Diciamo soprattutto nel settore IT, quindi oppure technical support, o semplicemente nella vendita, quindi un minimo di esperienza, diciamo, di customer service può aiutare sicuramente a agevolare l'assunzione. Tu lo vedi in crescita il fenomeno dei giovani italiani che espatriano in Irlanda per cercare opportunità? Assolutamente, purtroppo in Italia la situazione non facilita molto il giovane. Io tra l'altro prevedo un aumento, diciamo, delle migrazioni verso l'Irlanda. Da cosa scappano? Scappano forse dal precariato, forse dal potersi realizzare. Irlanda è solo Dublino oppure anche altre città? Anche altre città. Forse Dublino è la meta più ambita perché è la capitale, però non è solo, è anche Cork, è anche Galway. No, anzi io consiglierei anche di valutare anche altre città, non solamente Dublino, perché ad esempio Cork è la chiamano anche la capitale del call center, quindi dall'Apple Computer, ci sono tante aziende nel settore dell'informatica, antivirus, reclutano tra l'altro personale italiano. Le attività di Irlanda Italiana: promuovere, diciamo, la bella parte del nostro paese, quindi promuovere la cultura, le tradizioni e dare una voce, insomma, alla nostra comunità. Principalmente organizzeremo delle cene, degli eventi culturali, dal teatro al cinema, degli eventi musicali. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.irlandaitaliana.com. Un motivo per restare o tornare. Interessanti novità dal Parlamento. Via libera dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato a una proposta di modifica alla legge elettorale che prevede che in caso di parità di voti a un'elezione a passare sia il candidato più giovane. Intanto salgono a 13.500 euro le deduzioni forfettarie per le assunzioni a tempo indeterminato delle under 35. Lo prevede l'emendamento fiscale al DDL Stabilità presentato in Commissione Bilancio. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava.